terzo anello ad alta voce. Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Noi eravamo, al momento dell'invasione del Belgio, spaventati, ma ancora fiduciosi che l'avanzata tedesca si fermasse. E la sera ascoltavamo la radio francese, sempre sperando in qualche notizia rassicurante. La nostra angoscia cresceva a misura che i tedeschi avanzavano. Venivano da noi la sera Pavese e Rognetta, un nostro amico che a quel tempo vedevamo spesso. Rognetta era un ragazzo alto e colorito in viso, che parlava con le R. Si occupava di non so che industria e viaggiava molto fra Torino e la Rumenia. E noi, che facevamo una vita chiusa e sedentaria, ammiravamo in lui l'aria che aveva di essere sempre sul punto di salire in treno o di esserne sceso in quell'istante. E lui, forse conscio della nostra ammirazione, accentuava con noi quell'aria, giocava un poco a fare il grande uomo d'affari e il grande viaggiatore. Rognetta raccoglieva nei suoi viaggi notizie. Fino all'invasione del Belgio le sue notizie erano state sempre di natura ottimistica. Dopo l'invasione si tinsero di un pessimismo color d'inchiostro. Rognetta diceva che la Germania avrebbe invaso tra poco non solo la Francia e anche certo l'Italia, ma tutto il mondo, per cui non sarebbe rimasto al mondo un palmo di terra dove sopravvivere. Mi chiedeva, prima di andarsene, come stavano i miei bambini, e io dicevo che stavano bene, e così una volta mia madre gli disse: «Ma cosa importa che stiano bene se fra poco viene Hitler e ci ammazza tutti?» Rognetta era sempre molto compito e usava, nell'andarsene, baciare la mano a mia madre. Quella sera, baciandole la mano, le disse che però si poteva sempre andare, forse, nel Madagascar. «Perché proprio nel Madagascar?» chiese mia madre. Rognetta rispose che un'altra volta glielo avrebbe spiegato, ma ora non aveva tempo, doveva prendere il treno. E mia madre, che nutriva in lui grande fiducia e d'altronde in quel periodo, nella sua ansia, beveva ogni parola che gli altri dicevano, quella sera e tutto il giorno dopo continuava a ripetere: «Ma chissà perché proprio nel Madagascar?» Rognetta non ebbe mai tempo di spiegarci perché. Non l'avrei rivisto che molti anni più tardi, e Leone credo che non lo rivide mai. Mussolini dichiarò la guerra come da vari giorni aspettavamo. La sera stessa la balia partì, e io guardai con grande sollievo sparire in fondo alle scale la sua larga schiena, senza più il costume da balia e vestita di percalle nero. Venne a trovarci Pavese. Lo salutammo con l'idea che per un pezzo non l'avremmo rivisto. Pavese odiava gli addii e nell'andarsene salutò come sempre, porgendo appena due dita della sua mano scontrosa. Pavese, quella primavera, era solito arrivare da noi mangiando ciliegie. Amava le prime ciliegie, quelle ancora piccole e acquose, che avevano, lui diceva, sapore di cielo. Lo vedevamo dalla finestra apparire in fondo alla strada, alto, col suo passo rapido. Mangiava ciliegie e scagliava i noccioli contro i muri con un tiro secco e fulmineo. La sconfitta della Francia, per me, rimase legata per sempre a quelle sue ciliegie, che arrivando ci faceva assaggiare, traendole a una di tasca con la mano parsimoniosa e scontrosa. La guerra, noi pensavamo che avrebbe immediatamente rovesciato e capovolto la vita di tutti. Invece per anni molta gente rimase indisturbata nella sua casa, seguitando a fare quello che aveva fatto sempre. Quando ormai ciascuno pensava che in fondo se l'era cavata con poco e non ci sarebbero stati sconvolgimenti di sorta, né case distrutte, né fughe o persecuzioni, di colpo esplosero bombe e mine dovunque e le case crollarono e le strade furono piene di rovine, di soldati e di profughi. E non c'era più uno che potesse far finta di niente, chiuder gli occhi e tapparsi le orecchie e cacciar la testa sotto al guanciale. Non c'era. In Italia fu così la guerra. Mario tornò in Italia nel 45. Era forse commosso e malinconico, ma non lo lasciava vedere. E porse a mia madre, che lo abbracciava, la mascella ironica, la fronte abbronzata e solcata di ironiche rughe. Era ormai tutto calvo, col cranio nudo e lucido e come di bronzo, e vestiva una casacca linda e lisa di una seta grigia che sembrava fodera, come si vedono nei film indosso a certi negozianti cinesi. Faceva ora un viso corrugato e serio quando approvava persone e cose che gli sembravano serie o quando mostrava ad apprezzare i nuovi romanzieri o nuovi poeti. Diceva di un romanzo: «È buono, non c'è male, è abbastanza buono». Parlava sempre come se traducesse dal francese. Aveva abbandonato Erodoto, i classici greci, o almeno non ne parlava più. I romanzi nuovi che apprezzava erano in genere romanzi francesi sulla resistenza. Ma sembrava diventato più cauto nei suoi apprezzamenti, o almeno era più cauto nelle sue simpatie, non come una volta soggetto a infatuazioni improvvise. Non era però diventato più cauto nel deprecare e nel condannare, e mostrava nell'odio l'antica incontrollata violenza. Non gli piaceva l'Italia. Quasi tutto in Italia gli sembrava ridicolo, fatuo, mal congegnato e mal costruito. La scuola in Italia fa pena, in Francia è migliore. In Francia non è perfetta, però è migliore. Si sa, qui c'è troppi preti, è tutto in mano ai preti. Quanti preti, diceva ogni volta che usciva, quanti preti avete in Italia? Noi in Francia possiamo fare chilometri senza incontrare un prete. Mia madre gli raccontò un fatto che era successo al bambino di una sua amica molti anni prima, ancora prima della guerra e prima anche della campagna razziale. Questo bambino era ebreo e i suoi l'avevano messo alla scuola pubblica. Avevano però chiesto alla maestra di esentarlo dalle lezioni di religione. Un giorno la sua maestra non c'era in classe e c'era invece una supplente che non era stata avvertita, e quando venne l'ora di religione si meravigliò a vedere quel bambino prendere la cartella e prepararsi a uscire. «Tu perché te ne vai?» chiese. «Me ne vado», disse il bambino, «perché io vado sempre a casa quando c'è l'ora di religione». «E perché?» domandò la supplente. «Perché io», rispose quel bambino, «non voglio bene alla Madonna». «Non vuoi bene alla Madonna!» gridò scandalizzata la maestra. «Avete sentito, bambini? Non vuoi bene alla Madonna! Non vuoi bene alla Madonna!» gridava ora tutta la classe. I genitori s'erano trovati costretti a levare il bambino da quella scuola. A Mario questa storia piacque immensamente. Non finiva più di estasiarsene e chiedeva se era proprio vera. «Inaudito!» diceva battendosi la mano sul ginocchio. «Una cosa inaudita!» Mia madre era contenta che la sua storia gli fosse tanto piaciuta, ma poi si stancò di sentirlo ripetere che in Francia maestre così non esistevano e non si potevano nemmeno pensare. Era stufa di sentirgli dire «da noi, in Francia», e stufa anche di sentirlo parlare contro i preti. «Sempre meglio un governo di preti che il fascismo», diceva mia madre. «È lo stesso, non capisci che è lo stesso? La stessa cosa!» Negli anni della guerra, che non l'avevamo rivisto, Mario s'era sposato. La notizia del suo matrimonio arrivò ai miei genitori poco prima della fine della guerra. S'era sposato, raccontò qualcuno, con la figlia del pittore Amedeo Modigliani. Mio padre, per la prima volta alla notizia del matrimonio di uno di noi, rimase tranquillo, cosa che parve a noi e a mia madre stranissima, inesplicabile, e che restò per sempre senza spiegazione. Ma forse mio padre aveva avuto tanta paura per Mario in quegli anni, pensandolo o prigioniero dei tedeschi o morto, che ora il fatto che fosse soltanto sposato gli sembrava un incidente di infima importanza. Mia madre era tutta contenta e almanaccava su quel matrimonio e su quella Jeanne che non aveva mai visto, ma di cui le avevano detto che sembrava un quadro di Modigliani, pettinata come son pettinate le donne in quei quadri. Mio padre osservò soltanto che i quadri di Modigliani erano un orrore, sgarabazzi, sbrodeghezzi, e non disse altro, ma sembrava guardare a quel matrimonio con vaga approvazione. Finita la guerra, arrivò da Mario una lettera, poche laconiche righe. Diceva che s'era sposato per ragioni connesse con la sua residenza in Francia e s'era già divorziato. «Peccato», disse mia madre, «come mi dispiace». Mio padre non disse nulla. Quando lo rividero, Mario di quel suo matrimonio, di quel suo divorzio, non sembrava disposto a parlare. Lasciava intendere che era tutto scontato in partenza, matrimonio e divorzio, e aveva l'aria di voler affermare che fossero matrimoni e divorzi la cosa più semplice e più naturale del mondo. D'altronde, non sembrava disposto a parlare di nulla che gli fosse accaduto in quegli anni. Se aveva avuto privazioni o spaventi, delusioni o mortificazioni, non lo disse. Ma apparivano a volte sul suo viso indurito solchi malinconici quando era in riposo, con le mani unite, strette fra le ginocchia, in un atteggiamento che gli era stato sempre consueto, il bronzo cranio appoggiato al dorso della poltrona, le labbra incurvate in una piega delusa, una sorta di sorriso amaro e mite. «Non vai a trovare Sion Segre?» gli chiese mio padre. S'era immaginato che corresse subito in cerca di Sion Segre, suo compagno nell'antica avventura. «Non ci vado. Non sapremo più cosa dirci», Mario disse. Neppure volle andare a trovare i suoi fratelli nelle varie città, benché non li rivedesse da molti anni. Disse, come aveva detto di Sion Segre, «Ormai non sapremo più cosa dirci». Tuttavia sembrò contento di vedere Alberto, che era tornato dopo la guerra a Torino. Ora non lo disprezzava più. «Deve essere un buon medico», disse. «Non c'è male, come medico deve essere abbastanza buono». Gli chiese qualche informazione riguardo alla malattia di Cafi, descrivendogliene i sintomi e riferendo le opinioni dei medici che lo curavano. Cafi abitava a Bordeaux e ormai non poteva più lasciare il letto, avendo perduto ogni forza e quasi non parlava più. Come aveva vissuto Mario in quegli anni, lo sapemmo a poco, a strappi, dalle frasi laconiche e spazientite che buttava là ogni tanto, sbuffando e alzando le spalle, quasi irritato che non sapessimo nulla. Durante l'avanzata tedesca si trovava a Parigi, avendo lasciato quel collegio in campagna dove insegnava, ed era tornato a vivere col gatto nella sua soffitta. Di giorno in giorno i tedeschi avanzavano, e Mario disse a Cafi che bisognava lasciare Parigi. Ma Cafi aveva un piede malato e non voleva muoversi. Chiaromonte, sua moglie morì all'ospedale proprio in quei giorni, e lui decise di andare in America. Si imbarcò a Marsiglia sull'ultima nave civile che ancora salpava. Mario infine persuase Cafi a venirsene via. Lasciarono Parigi a piedi, quando ormai c'erano i tedeschi a un chilometro e non era più possibile trovare un mezzo di trasporto. Cafi zoppicava e s'appoggiava a Mario e procedevano con esasperante lentezza. Di tanto in tanto Cafi si sedeva a riposare sul ciglio della strada e Mario gli rifaceva la fasciatura. Poi riprendevano a camminare e Cafi trascinava nella polvere il piede dolorante, calzato di una pantofola e di un calzerotto rammendato col filo rosso. Finirono in un villaggio nei dintorni di Bordeaux. Mario fu internato in un campo di profughi stranieri. Lasciato libero, entrò nel Maquis. Alla fine della guerra era a Marsiglia e faceva parte del Consiglio Depurazione. Chiaromonte lasciò l'America e tornò a Parigi ed erano, con Cafi e Mario, sempre amici. Mario non ci pensava neppure a tornare a stabilirsi in Italia, anzi aveva fatto richiesta per avere la cittadinanza francese. Era consulente economico di un industriale, un francese, ed era venuto in Italia in automobile con questo francese e lo portava in giro a vedere i musei e le fabbriche. Ma il francese era lui che guidava l'automobile, perché Mario continuava a non saper guidare. Mio padre e mia madre si domandavano inquieti se quell'impiego aveva qualche carattere di stabilità o se era cosa temporanea e precaria. «Ho paura che abbia finito col fare un mestierolino», diceva mia madre. «Peccato, lui che è così intelligente». «Ma chi è quel francese?» diceva mio padre. «Mi pare che abbia un'aria equivoca». Mario si fermò in Italia non più di una settimana, poi ripartì col francese e non lo vedemmo per molto tempo. Thank you. La piccola casa editrice di una volta era diventata grande e importante. Vi lavorava ora molta gente. Aveva una nuova sede, in corso Re Umberto, la sede antica essendo crollata in un bombardamento. Pavese aveva ora una stanza da solo e sulla sua porta c'era un cartellino con scritto «Direzione editoriale». Pavese stava al tavolo con la pipa e rivedeva bozze con la rapidità di un fulmine. Leggeva l'Iliade in greco nelle ore d'ozio, salmodiando i versi ad alta voce con triste cantilena. Oppure scriveva, cancellando con rapidità e con violenza, i suoi romanzi. Era diventato uno scrittore famoso. Nella stanza accanto alla sua c'era l'editore, bello, roseo, col collo lungo, i capelli lievemente ingrigiti sulle tempie come ali di tortora. Aveva ora molti campanelli sul tavolo e telefoni e non urlava più «Coppa!». Del resto la signorina Coppa non c'era più. Non c'era più l'antico magazziniere. Ora, quando voleva chiamare qualcuno, l'editore premeva un bottone e parlava nel telefono interno col piano di sotto, dove c'erano molte dattilografe e molti magazzinieri. Di tanto in tanto l'editore prendeva a passeggiare avanti e indietro nel corridoio con le mani dietro la schiena, la testa un po' reclina sulla spalla, e s'affacciava alle stanze degli impiegati e diceva qualcosa con la sua voce nasale. L'editore non era più timido, o meglio, la sua timidezza si ridestava solo a tratti, quando doveva avere colloqui con estranei, e non sembrava più timidezza, ma un freddo e silenzioso mistero. Per cui la sua timidezza intimidiva gli estranei, i quali si sentivano avvolti di uno sguardo azzurro, luminoso e glaciale, che li indagava e li soppesava di là dal grande tavolo di vetro, a una glaciale e luminosa distanza. Quella timidezza era così diventata un grande strumento di lavoro. Quella timidezza era diventata una forza contro la quale gli estranei venivano a sbattere come farfalle sbattono abbagliate su un lume. E se erano venuti là, sicuri di sé, con bagagli di proposte e progetti, si ritrovavano poi al termine del colloquio stranamente spossati e sconcertati, col dubbio sgradevole d'essere forse un po' stupidi e ingenui, ed aver mulinato progetti senza nessun fondamento, alla presenza di una fredda indagine che li aveva scrutati e sceverati in silenzio. Pavese raramente accettava di ricevere estranei. Diceva «Ho da fare, non voglio nessuno, si impicchino, me ne infischio!». Invece i nuovi impiegati, i giovani, erano favorevoli ai colloqui con gli estranei. Potevano gli estranei portare idee. Pavese diceva «Qui non c'è bisogno di idee». Ne abbiamo anche troppe di idee. Squillava il telefono interno sul suo tavolo e diceva nel ricevitore la nota voce nasale «Di sotto c'è il tale, ricevilo. C'è caso che abbia qualche proposta». Pavese diceva «Che bisogno c'è di proposte? Siamo pieni di proposte fino al collo. Me ne infischio delle proposte. Non voglio idee!». «Girallo allora a Balbo», diceva la voce. Balbo, lui, dava retta a tutti. Non rifiutava mai un nuovo incontro. Balbo non aveva difese contro le proposte e le idee. Tutte le proposte, tutte le idee gli piacevano, lo sollecitavano, lo mettevano in fermento e veniva a disporle a Pavese. Veniva là, piccolo, col suo naso rosso, serio come diventava serio quando aveva una proposta da esporre, quando credeva d'aver messo gli occhi su un caso umano nuovo, stupito come sempre si stupiva dinanzi ad ogni nuova forma umana che si delineava sul suo orizzonte, sempre disposto a scorgere l'intelligenza dovunque, a vederla pullulare in ogni angolo dove s'erano posati sui piccoli occhi celesti, acuti e ingenui, sprovveduti e profondi. Balbo parlava, parlava, e Pavese fumava la pipa e s'arricciolava intorno al dito i capelli. Pavese diceva «Mi sembra una proposta cretina». «Difenditi dai cretini!» E Balbo rispondeva che sì, era infatti in parte una proposta cretina, ma era però anche insieme non tanto cretina, e aveva un nocciolo buono, vitale, fecondo. Balbo parlava e parlava e parlava sempre, non taceva mai. Quando aveva finito di parlare con Pavese, andava nella stanza dell'editore e anche con lui parlava, piccolo, serio, col piccolo naso rosso, e l'editore si dondolava sulla poltrona, dardeggiava a tratti su di lui lo sguardo chiaro e freddo, scarabocchiava su un foglio segni geometrici, la sigaretta spenta fra le labbra, le gambe accavallate.